sembrava tutto quasi già un ricordo, adesso però colpito a morte, so che quel porto non lo vedrò. E su quest'isola tra mille fitte come stelle, dove non c'è niente di me, non so convincermi che l'aria al giorno, questo viaggio, tutto finisca qua. Con questo brivido di panico in faccia, sangue nella bocca, quello che ho, quello che ho visto e che non vedrò più. È buffo solo fama e oro, mi hanno spinto qua giù. Adesso mentre i miei occhi si spengono, di questa vita voglio ricordare il tuono e il mare, la vela che sopra di me treme e si gonfia, mentre la mia nave vola come il vento sopra l'onda che scalcia. E sento dentro insieme un secolo di calma, l'attimo che scoppia. Non è questo che ho visto nel cielo quel giorno che sono partito, e che ho visto di nuovo in ogni metro strappato al mare lungo questo viaggio infinito. Non tornerò più, però fino a qui ci sono arrivato, e voltandomi indietro so ancora di dirlo che non tutto muore, che qualcosa resta, una storia, una spinta a partire, una rotta come una strada sul mare.